Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di parchi giochi per anziani. Se non ne avete mai sentito parlare perché siete italiani, mentre in molti paesi, Stati Uniti in primis, ma anche in Spagna, nei paesi del nord Europa, persino a Cuba, questi giardini terapeutici dedicati appunto agli anziani sono realtà ben conosciute da oltre 30 anni. Chiara Albicocco è riuscita a intercettare Monica Botta, che è uno dei pochissimi architetti italiani che sta cercando di importare anche nel nostro paese queste realtà. Sentiamo com'è andata. Botta, come nascono questi parchi pubblici appunto destinati agli anziani che contengono veri e propri giochi, strumenti di esercizio e di sfogo per persone di età un po' più avanzata? Di fatto sono degli spazi che sono destinati agli anziani e nascono come fossero dei percorsi vita molto più leggeri, ovviamente, che permettono di far fare attività sportive, dolci, diciamo così, facendo fare attività sia fisiche e cognitive. Nascono da quella che è una filosofia e è un credo, diciamo così, più studiato, che è quello dei giardini terapeutici. Quindi, diciamo, con uno scopo più medico, terapeutico proprio. Terapeutico, direi. Gli americani hanno approfondito sin dagli anni, i primi studi sono nati negli anni 80, hanno approfondito questa tematica degli healing gardens, cioè giardini terapeutici. Questa tematica poi si è allargata e ha coinvolto i giardini con varie sfaccettature. Di fatto servono per dare degli stimoli tattili, olfattivi, visivi, uditivi e del gusto, perché no, e possono avere degli effetti praticamente terapeutici sulla persona anziana, sul disabile, sul malato, su tutte quelle persone che io chiamerei utenze fragili. Ecco, infatti, che tipo di giovamento ha un anziano che frequenta queste aree specifiche e attrezzate? Beh, sicuramente il sollievo, la distrazione da sintomi o malattia, questo in primis, secondo il controllo sulla malattia e la motivazione a vivere, danno una maggiore autonomia, un ritrovamento di uno spazio di privacy all'interno della natura, la riduzione forte dello stress, un miglioramento della qualità di vita e sicuramente infine un miglioramento psichico e fisico. Ecco, forse proprio un luogo di aggregazione, un allontanamento della solitudine che purtroppo magari qualcuno avverte. Sì, sicuramente sono luoghi di socializzazione, è chiaro che dipende da che finalità hanno e dove sono inseriti, in che contesto sono inseriti. Chiaro, in una casa di riposo hanno un senso, una casa di cura per anziani hanno un senso, in un parco pubblico probabilmente coinvolgono la popolazione e creano punti di socializzazione, in una struttura sanitaria riabilitativa hanno un altro senso, i giardini terapeutici possono essere indirizzati in base al tipo di utenza e creare ovviamente delle sinergie, quindi sinergie tra disabili, bambini, anziani, persone normodotate, quello che può fare a volte uno spazio verde non riesce a farlo uno spazio chiuso, un edificio, una struttura sanitaria. Ecco. Veri e propri parchi pubblici, diciamo parchi giochi per anziani in Italia non esistono, qualcosa invece si sta muovendo dal punto di vista dei giardini terapeutici che tu ci hai ben introdotto, ci dici magari dove si possono trovare e che tipo di esempi sono? Sì, qualche professionista si sta adoperando per inserire queste tematiche dei giardini terapeutici che gli americani negli anni 80-90 hanno iniziato ad approfondire, diciamo che noi siamo un po' indietro da 30 anni ma ci stiamo arrivando poco per volta. Cito questo caso perché è un mio caso, è un giardino terapeutico realizzato in una struttura sanitaria per anziani in provincia di Novara. Abbiamo realizzato in questo spazio una terrazza verde dove le persone anziane possono passeggiare immerse nel verde, un percorso storico sensoriale che permette agli anziani di fruire questo spazio, recepire praticamente degli stimoli sensoriali da profumi, odori, colori, nonché vedere antiche attrezzi agricoli della storia del paese, uno spazio dedicato all'ortoterapia per far fare attività di ortoterapia, altra tematica molto interessante soprattutto per una questione riabilitativa, ed infine uno spazio di fisioterapia, proprio il famoso parco giochi o comunque riferimento della... che compongono appunto i parchi che dicevamo prima, i famosi parchi giochi. Va bene, grazie e buona serata. Grazie a voi per l'interesse. Ebbene, lasciatemi fare una considerazione prima di chiudere, perché è davvero facile sottovalutare o considerare del tutto marginali tematiche come queste rispetto al grande e anche un po' super tecnologico tema delle smart city. Sarebbe però un grave errore. Prima di tutto perché è molto facile sottostimare i saperi che sono necessari per progettare queste strutture, che al contrario invece richiedono addirittura competenze di tipo multidisciplinare e per ragioni piuttosto evidenti. Ma il motivo più importante per cui iniziative come queste meritano attenzione è che le smart city, per essere tali, non possono che nascere e svilupparsi intorno alle esigenze delle persone. Mentre, come abbiamo già avuto occasione di sottolineare, il rischio più grosso che c'è in tutta questa partita delle smart city è proprio quello di appiattirsi eccessivamente sulle tecnologie. Di giardini terapeutici vi lascio con quest'ultimo annuncio, si parlerà più approfonditamente nella puntata di Mebius di sabato alle ore 20. Mebius è la nostra trasmissione di scienza. Per intanto è tutto, appuntamento a lunedì.